Siamo in collegamento telefonico con Antonello Avallone, che cura la versione teatrale, la regia, oltre che essere in scena, dello spettacolo In nome del Papa Re di Luigi Magni, che è in scena al Teatro dell'Angelo a Roma dal 9 fino al 25 di marzo. Antonello, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno. È un piacere averti qui con noi un'altra volta, perché Reciproco anche sicuramente. perché è uno spettacolo che abbiamo ospitato alla Radioteatro con molto piacere. Allora, raccontiamo a chi ci ascolta e non conoscesse questo capolavoro di Magni la storia di questo Allora, in nome spettacolo. del Papa Re, innanzitutto è una nostra riproposta, l'ultima, perché poi possiamo mettere anche una codina con una novità, perché noi probabilmente a fine stagione andiamo via, perché è troppo grosso l'impegno economico da parte della proprietà nei nostri confronti, quindi probabilmente dopo 12 anni il Teatro dell'Angelo chiude. E allora anche per questo abbiamo voluto chiudere non la stagione, perché poi abbiamo ancora Barbara De Rossi e Rosario Galli con un altro spettacolo, però abbiamo detto In nome del Papa Re è uno dei successi nati qui al Teatro dell'Angelo e quindi abbiamo riproposto nuovamente la storia è bellissima, affascinante, un film di Luigi Magni ovviamente ambientato nella Roma papalina, esattamente nel 1867, potere temporale della Chiesa, e c'è un monsignore che nel film interpretò magistralmente Nino Manfredi, che ha dei grossi dubbi, non come prete, ma come proprio riguardo al potere temporale della Chiesa. E ha già questi dubbi, a un certo punto gli arriva una contessa che ha suo figlio in pericolo, sto figlio che non si sa neanche da dove è uscito fuori, e invece esce fuori proprio che 20 anni prima questa signora che faceva l'infermiera, mentre lui dava l'estrema unzione insomma, ai ribelli di quel momento, ai soldati, eccetera, della rivoluzione del 1849, e insomma questo ragazzino è figlio anche del Monsignore, è stato diciamo artefice di un attentato alla caserma Servistori, 22 ottobre 1867, tutte cose documentate, e lo sanno per tagliare la testa. E allora lui cerca di intervenire e ha questa crisi grossa, perché lui è un vero sacerdote, nel senso che ci crede profondamente a quello che fa, tenta di difenderlo ma non ci riesce. Tra l'altro questo attentato alla caserma Servistori, sempre per parlare di storia, era una vendetta contro quello che aveva fatto il Papa e quindi i soldati, i zuavi, i francesi, che avevano ucciso la famosa Giuditta Tavani Arquati, una donna romana di cui c'è ancora una via qua in Trastevere. Però che cosa succede? Succede che Luigi Magni è un grande sceneggiatore, un grande autore, per cui in questo tema così importante, così storico, si ride tanto, si riesce a ridere anche accanto a grandi momenti di commozione e di tensione, di suspense. Questi sono i grandi autori quando riescono, a mio avviso, quando riescono a conciliare una storia importante, addirittura legata a fatti storici, appunto, e riesce a alleggerirla qui e là con battute romane o situazioni comiche molto molto forti. Non è la prima volta che lo proponiamo, vogliamo chiudere con questo. La gente torna anche a vederlo se l'ha già visto, perché comunque è una storia molto affascinante. Tra l'altro abbiamo avuto proprio ieri sera Erminia Manfredi, la moglie di Nino, che sarà con la figlia Roberta, e tra l'altro, piccola curiosità, e poi mi azzitto, in scena la parte di Cesarino, questo ragazzo, figlio del Monsignore, interpretato dal nipote diretto di Nino Manfredi, si chiama Matteo Simone. È una cosa che è avvenuta per caso quasi, io l'ho scelto, non sapevo neanche che fosse il nipote di Nino Manfredi, e quindi è una piccola particolarità, tutto qui. Una Il testo sì. vorrebbero conoscerlo tutti, è un film del 68, che è comunque legato anche al nostro 1968 in qualche maniera, al di là che è spostato di 100 anni indietro, no? Certo, Quindi certo. come movimenti insomma un po' rivoluzionari, Sì, 100 anni prima e 100 anni dopo. Antonello, la curiosità più grande è sul ruolo che è stato di Sergio Fiorentini. Ecco, questo sì. Allora, Sergio Fiorentini, purtroppo se n'è andato qualche anno fa, e è difficile stare in scena senza di lui, perché Sergio Fiorentini era un attore che fermo e zitto diceva un sacco di cose. E quindi era per me un aiuto enorme, perché sai, un attore che sta sul palco ci deve stare non solo con la testa, ci sta anche col corpo, e quando il corpo parla senza che si muovano le labbra, sono piccoli momenti quasi poetici, Sì, insomma, no? sì. E quindi certo che mi manca. Adesso c'è una persona brava che sta accanto a me, non così anziana come Sergio, che comunque con quel ruolo e con quell'età dà una forza al personaggio perpetuo, il famoso Serafino che sta sempre accanto a Monsignor Colombo da 20 anni, una forza che è irripetibile. Quindi non voglio togliere niente a nessuno, quindi al nuovo interprete, che non è una persona famosa, non gli tolgo niente perché è molto bravo, però Sergio Fiorentini, Sergio Fiorentini, punto. Non ce l'abbiamo più. Senti Antonello, l'avete immortalato questo spettacolo con delle riprese? Noi abbiamo la ripresa fatta quando c'era Sergio, Quando c'era poi ce Sergio? l'abbiamo anche un'altra, perché poi la facemmo anni fa con Pippo Franco nel ruolo di Serafino, però anche Pippo lo sapeva, no? Al di là di Pippo Franco, che lo conosciamo bene, eccetera, che l'abbiamo inserito in una parte drammatica, tra l'altro, no? Noi tutti abituati a vederlo sempre solo in ruoli comici, però c'ho sia la versione con Sergio che con quella con Pippo. Quella con Sergio è un po' storica, anche perché è la prima, è del 2010, mi pare, Sì. 2009-2010, la prima volta che abbiamo toccato Magni. Senti, come sta rispondendo il pubblico? Quello che viene, benissimo. Quello che non viene, non viene. Nel senso, e quindi peggio per loro, si potrebbe dire, no? E anche peggio per noi, perché comunque, se vogliamo prendere anche questa nota, te lo devo dire, c'è una sproporzione enorme tra quanto costa un teatro e quello che è il risultato finale dell'affluenza del pubblico. Abbiamo molte difficoltà. Allora, qualcuno può pensare che sarà brutto lo spettacolo, a posto non ci va nessuno. Non è proprio così, non è così. Gente è distratta da mille cose. Ti faccio un esempio: noi dovevamo debuttare il 7, abbiamo detto oddio, l'8 è la festa delle donne, come si fa? Poi vanno adesso, poi tutte quelle rivoluzioni, poi quello che fanno oggi, vanno a mangiare la pizza insieme tra donne, che mi sembra una banalità su quello che è stato poi il 68, e tutte le cose ottenute giustamente dalle donne. Allora abbiamo detto, vabbè, non debuttiamo il 7, debuttiamo il 9. Oddio, va bene, fatto, Roma-Torino. Per dire, combattiamo contro tutto, contro le domeniche ecologiche. La domenica ecologica non si va in macchina dalle 3:30 alle 6. A che ora sono le pomeridiane dei teatri? 5:30. Vabbè, c'è la metropolitana. Ma non tutti la riprendono la metropolitana. Oppure lo prendono per andare al lavoro, quando invece la domenica che vogliono uscire, magari vanno prima a pranzo da nonna e poi dopo vogliono venire a teatro. Ma alle 3:30 non si può prendere la macchina. Dopo le pomeridiane sono le 5:30 e la macchina la puoi prendere alle 6. E allora è quello, e allora è la partita. E sono i telefonini, dove sui telefonini arrivano i film, arriva tutto. È cambiata la società. Quindi il pubblico, specialmente per la prosa, parla, è diminuito tanto. E noi non ce la facciamo più, aiuti dall'esterno non ce l'abbiamo, e lavoriamo soltanto col botteghino, con gli affitti, con le riunioni, con i convegni, però non bastano, non bastano. E allora dopo 12 anni Allone il saluto e se ne va, dove? Non so, può darsi a casa o può darsi ricominciamo da un'altra parte, però Teatro dell'Angelo non può più esistere. Perché io non ce la faccio più, dovrei Senti, anche vivere, no? Dopo che fai 16 ore al giorno tutti i giorni, poi insomma, alla fine del mese devi aggiungere soldi, finiscono quei due che hai messo da parte, finiscono, non ci vuole niente. una grossa sproporzione. Quindi il pubblico sì, viene, ma non ci abbiamo le folle. Qualcuno dice perché l'avete già fatto, va bene, Rumori fuori scena va in scena da 20 anni, no? Certo. Io adesso non so che affluenza di pubblico abbia, però uno può anche proporre dei cavallucci di battaglia, su, se Eh vogliamo certo. chiamare cavalli. Sì. Comunque ti ripeto, la gente che viene ne rimane molto molto colpita perché la storia, tu lo sai bene, è molto coinvolgente, poi si ride, ci sono un sacco di risate, il Sì. dramma finisce con una morte e quindi si riesce comunque a commuoversi e a ridere nello stesso tempo, Sì. che è quello a cui miro io sempre in qualsiasi spettacolo che faccio, emozionare. Certo. Credo che il teatro sia questo, credo. Senti Antonello, allora a proposito dell'attività dell'Angelo, ci lasci tutti i riferimenti per seguirvi, su internet? Sì, assolutamente, se ci spostiamo, comunque prendiamo un attimo di tempo, ovviamente saremo sempre presenti, perché non è che vado a casa a vedere la televisione, non l'ho mai vista adesso, vedere la televisione e invecchiarmi davanti alla televisione come fanno molti. No, no, no, io fino all'ultimo giorno che mi sento giovane, vado avanti, gioco a calcetto e faccio di tutto. Dopodiché, casomai mi sparo se divento vecchio, non lo voglio diventare vecchio. Vabbè, comunque c'è il sito internet, la pagina Sì, Facebook, insomma. ma certamente, certamente, Perfetto. assolutamente sì. Allora, ricordiamo in nome del Papa Re, un adattamento e una regia e un'interpretazione di Antonello Avallone al Teatro dell'Angelo. È cominciato il 9. Scena, mi permetto di ricordare, Certo. 11 attori in scena, perché non sono da solo, ma Certo. abbiamo altri 10 attori vicino, scusa l'interruzione, ma per dire che non è un monologo. E siamo, scusa, ti ho interrotto, eh? No, però se li vuoi ricordare, anzi, ancora meglio. Sì, no, a parte questo, no, per sapere che siamo tanti, Certo. comunque nemmeno non si può fare questo spettacolo. In scena fino al 25 marzo, Teatro dell'Angelo a Roma. Antonello, un abbraccio e ci si sente presto. Grazie. E grazie tanto che ci siete Ciao. e che esistete. Grazie infinite.